Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Cinque minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e dunque saremo qui a raccontare anche lungo tutto agosto per chi lavorerà e per chi comunque riuscirà a seguirci quella che è la cronaca della giornata economico-finanziaria. Giornata e settimana, diciamo, che si apre con borse positive a Milano, negative nel resto d'Europa e in America, con qualche dato migliore delle attese in Francia sulla produzione industriale, peggiore invece sul deficit americano quanto a dati economici o macroeconomici. E poi, per quello che riguarda i casi di casa nostra, continua così la querelle, forse un po' ferragostana, sicuramente agostana, sulle gabbie salariali. Oggi sui giornali avrete letto dell'apertura del Presidente del Consiglio Berlusconi a dei salari agganciati al costo della vita. Di fatto le posizioni restano molto distanti a livello politico, noi ce ne occupiamo come sempre a livello economico, in questo caso quindi di politica dei redditi, politica retributiva. Dico subito che il tema sembrava oggettivamente abbastanza superato dall'accordo raggiunto tramite anche il ruolo di mediatore del governo tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, numerosi soggetti, parti sociali, con i sindacati, tranne la CGIL, quell'accordo che ha messo le basi per rivedere come si definiscono i contratti di settore, ossia dare una forza più forte al contratto aziendale e un livello di cornice al contratto nazionale. E allora si dice, nel contratto aziendale poi c'è la possibilità anche di tenere in considerazione quelle che sono le diverse produttività dell'azienda, quindi utili, fatturato, e anche eventualmente quello che è il costo della vita, perché è chiaro che, insomma, un dipendente poi va a contrattare il suo salario sulla base di quello che è il costo della vita nell'area geografica in cui vive. A molti le gabbie salariali sembrano un salto indietro e rischierebbero di ingessare il livello contrattuale. Poi non si capisce, ma adesso ne parleremo, se gabbie salariali voglia dire stipendi più alti al nord o di fatto stipendi più bassi al sud. Insomma, delle due l'una: se il costo della vita è più alto al nord, come ha rilevato anche la Banca d'Italia, legandolo però soprattutto, adesso ne parleremo, al costo degli affitti più che dei generi alimentari, delle spese più comuni di prima necessità. Lì bisogna capire se questo voglia dire aumentare gli stipendi dei dipendenti del nord, che vedo cosa difficile visti gli utili o non utili aziendali e i fatturati in netto calo, oppure diminuire quelli del sud, ma anche quella mi sembra un'ipotesi quantomeno non percorribile, viste poi le proteste che arrivano da molti governatori del nostro mezzogiorno. Vedremo, polemica ferragostana, ma tant'è, questo ci offre la cronaca. 349-238-6666 per i vostri sms. Le borse, come sempre, più 0,80% Milano sta migliorando, più 0,67% FTSE All, migliorando anche perché nel resto d'Europa sono negative tutte le borse. Parigi perde mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,6%, Londra tra le migliori dopo Milano, meno 0,1%, l'America, che perdevano 0,3% in apertura, adesso ha ridotto il calo a uno 0,1%. Euro a quota 1,41, bene oggi in borsa, Piazza Affari, i titoli legati al settore costruzioni. Buzzi Unicem più 5%, supera gli 11 euro per azione, e anche Italcementi va bene, più 2,90%. Poi c'è una pattuglia, un gruppo di titoli bancari guidato da Intesa San Paolo, più 3%, ma anche la Popolare di Milano più 2,6%, il Monte dei Paschi più 2%, il Banco Popolare più 1,3%. Per quello che riguarda i titoli più positivi, e bene anche Mediaset più 3%, Autogrill più 3,1%, dopo i dati buoni di Autogrill continua il titolo il suo progresso, ancora il Pirelli più 1,26%, Finmeccanica più 1,2%. Chi perde? Atlantia meno 0,8%, Saipem meno 0,7%, come Campari, Bulgari e Mediobanca. Euro a quota 1,41,38, oltre che di salari, gabbie salariali, parleremo anche delle borse e chiuderemo con un tema mi auguro un po' più così piacevole, ossia sembra essere una vendemmia eccezionale quella di quest'anno. Oggi inizierà la raccolta, tra l'altro in anticipo, ma dati di Federagri segnalano oggi una qualità ottima per le nostre uve. Speriamo che questo aiuti anche il settore, soprattutto nell'export. 349-238-6666, dicevamo per gli sms, le notizie in breve. Il petrolio resta a 70,29 dollari al barile, l'Euribor a 0,88, quindi poco mosso. Dati a livello internazionale sul settore aereo, migliora leggermente pur restando pesantemente negativo il traffico delle compagnie europee a giugno. Il calo infatti a giugno dei passeggeri è stato del 6,5% rispetto a un anno prima, mentre a maggio era stato dell'8,3% rispetto a un anno prima. L'Italia segnala aerei pieni al 66,4% contro il 59% dei primi 6 mesi dell'anno. Avrete anche letto, immagino, dell'intervista del presidente dell'Italia Roberto Colaninno, che ieri a Sky TG24 ha detto i conti del terzo trimestre miglioreranno, e Air One è un'ipotesi che possa diventare una compagnia low cost. Non è però un'ipotesi in esame in questo momento, è ancora troppo presto. L'economia internazionale, l'America. Allora, due notizie dall'America. Il deficit, lo hanno appena battuto le agenzie, degli Stati Uniti è schizzato a livelli record nel mese di luglio, ha toccato quota 1.300 miliardi di dollari e potrebbe al 30 settembre arrivare a 1.800 miliardi di dollari. Questo lo spiega l'ufficio budget del Congresso, soprattutto per le spese che lo Stato americano si è accollato per salvare le società americane, le banche, le compagnie assicurative in primo luogo, ma anche i produttori di auto. E poi anche in America pesa il calo delle entrate fiscali dovuto alla recessione. Altra notizia che però si collega, alcuni di voi ricorderanno quelle due coppie di ballerini di Broadway, come vennero chiamate, ossia le due principali agenzie che erogano mutui in America, Fannie Mae e Freddie Mac, salvataggio costosissimo per i contribuenti americani. Ebbene, Fannie Mae, che già è stata salvata da Washington, ha subito un'altra perdita di quasi 15 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno, tant'è che l'agenzia ha chiesto altri 10 miliardi, un po' di più, 10,7 miliardi di dollari allo Stato federale. Perché? Perché il gruppo dichiara di essere vittima di un aumento delle sofferenze nella riscossione dei mutui ipotecari, ossia in sostanza non riescono più a ripagare ed è difficile anche rientrare come sulle ipoteche, forse anche perché erano stati concessi in maniera un po' troppo facile questi mutui. Tra l'altro, la società, che è di fatto sotto il controllo dei poteri pubblici per evitare il fallimento, ha già perso 23 miliardi nei primi 3 mesi dell'anno. Una buona notizia arriva dalla Francia, che è il paese che in Europa sta sentendo meno, cioè, per carità, è anch'essa prevista andare in recessione quest'anno, ma meno di altri paesi le difficoltà dell'economia. A giugno, a sorpresa, la produzione industriale francese è tornata in positivo, più 0,3%, contro un calo atteso dello 0,2% rispetto a maggio. Se si guarda al dato rispetto all'anno prima è negativo, anche se non come in Italia o in Germania, meno 12,8%. Ed è quindi singolare quello che oggi è emerso da un sondaggio di KPMG sulle prospettive economiche, anticipato tra l'altro dal Financial Times, in cui sostanzialmente emerge che le imprese più ottimiste in Europa sono quelle italiane e britanniche, dove appunto la fiducia è ai livelli più alti, mentre proprio i due paesi, la Gran Bretagna soprattutto dal punto di vista finanziario, è il paese più colpito in Europa, mentre le imprese più così pessimistiche, con meno attese sul futuro di carattere positivo, sono quelle olandesi e francesi. L'economia italiana corre. In Italia la spesa previdenziale più 4% nel 2008, è aumentato infatti il peso delle pensioni minime, la spesa previdenziale ha fatto tra l'altro, se si considera anche tutti gli strumenti quali gli assegni familiari o l'indennità di disoccupazione ha fatto un più 5% l'anno scorso, però la maggior parte di queste pensioni, il 51%, sono sotto i 1000 euro. Oltre la metà dei pensionati italiani percepisce infatti un assegno inferiore ai 1000 euro al mese. Più di un pensionato su 5 vive con meno di 500 euro al mese, sono alcuni dei dati contenuti nella relazione generale sulla situazione economica del paese per il 2008 del Ministero dell'Economia. Differenze abbastanza accentuate tra le varie aree del paese. Nel nord, in sostanza, gli importi medi sono pari al 105% rispetto alla media nazionale. Nel sud l'assegno scende all'88% della media nazionale. E con questo dato ci agganciamo al primo tema di questa puntata. Vedo già molti sms al 349-238-6666. Le gabbie salariali sono tornate come tema politico dopo la proposta della Lega, l'apertura del Presidente del Consiglio favorevole a agganciare le retribuzioni al costo della vita. Il tutto è nato anche da un dato della Banca d'Italia in cui si metteva in evidenza come il costo della vita fosse diverso tra nord e sud, intorno al 16% il divario tra il costo della vita tra nord e sud del paese. Certo che secondo molti osservatori cercare di risolvere questo differenziale con le vecchie gabbie salariali è un ritorno al passato. Da un punto di vista statistico, infatti, è innegabile che il dato della Banca d'Italia abbia innescato il dibattito, chiamiamolo così, un po' estivo a mio avviso, sulle gabbie salariali. Un po' estivo perché mi sembra che i problemi dell'economia e della parte produttiva del paese siano altri in questo momento e non tanto andare a differenziare i salari. Comunque io ricordo che se la Banca d'Italia aveva stabilito nel 16,5% il divario tra nord e sud, era dovuto soprattutto al costo degli affitti e dei prezzi degli immobili, perché se si va a vedere invece la differenza tra prodotti alimentari, abbigliamento e arredamento, quindi le voci che da sole fanno un terzo dei consumi delle famiglie, beh, si vede che la differenza è del 3%. Il costo degli affitti invece è del 60%, cioè al sud il costo degli affitti è del 60% rispetto al centro-nord. Costo dei combustibili uguali e poi altri vari osservatori in questi giorni hanno fatto notare che comunque di fatto nella contrattazione già esiste una differenza. I lavoratori del nord, dice la CGIA di Mestre, guadagnano mediamente il 30% in più rispetto a quelli del sud. Le gabbie salariali avvantaggerebbero il mezzogiorno. Poi oggi un'indagine di PR Marketing vede soprattutto al nord il 75% degli intervistati favorevoli alle gabbie salariali, al sud solo il 30%. Cerchiamo di capire intanto che cosa ci sia dietro questo termine. Poi la domanda di fondo per me resta abbastanza semplice, forse perché ci capisco molto poco, ossia o andare a differenziare territorialmente come area geografica significa dare più soldi al nord, oppure significa dare meno ai lavoratori del sud. Di fatto, insomma, il terzo non è dato, da quello che capisco io, ma ci aiuteranno i nostri ospiti, che intanto ringrazio e saluto, a capire meglio il tema. Da un lato grazie al parlamentare della PDL Giuliano Cazzola, che è vicepresidente in Commissione Lavoro alla Camera, nonché studioso di politiche sociali. Buonasera onorevole. Buonasera a lei e agli suoi ascoltatori. E buonasera anche al presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello. Buonasera presidente. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, una brevissima scheda per ricordare che cosa c'è nella memoria storica di chi allora già esisteva nel termine gabbie salariali, che storia hanno avuto e anche com'è che sono finite, com'è che la pagina si è voltata su questo modo di contrattare gli stipendi. Poi veniamo invece all'attualità. 349-238-6666 per i vostri sms. Le gabbie salariali sono un ricordo controverso per il nostro paese. Un sistema di salari differenziati su base territoriale rimase infatti in vigore dal 1954 al 1969. Nel secondo dopoguerra, le cosiddette tabelle salariali fissavano rigide differenze retributive per diverse aree geografiche in base al costo della vita del luogo. Inizialmente le aree su cui si calcolavano i diversi salari erano 14 e la differenza tra una busta paga del nord e una del sud a parità di impiego poteva sfiorare il 30%. Nel 1961 le zone passarono da 14 a 7 e le disparità si attenuarono con un differenziale massimo che scese al 20%. Contro le gabbie salariali lottarono per anni CGIL, CISL e UIL, che lanciarono un'avvertenza nazionale supportata da scioperi e manifestazioni. La battaglia fu vinta il 21 dicembre del 1968, quando l'Intesit, l'associazione che allora raggruppava le aziende a partecipazione statale, accettò di eliminare il meccanismo delle gabbie. Seguì poi un'analoga decisione di Confindustria e a partire dal 1 luglio 1972 la differenziazione territoriale delle buste paga venne sepolta. Forse però non definitivamente, vista la campagna per il loro ripristino che la Lega Nord sta portando avanti da alcuni anni e che negli ultimi giorni ha subito una decisa accelerazione. Allora, onorevole Cazzola, io per carità capisco male, delle volte anche poco, però il tema mi sembra molto chiaro. In questo momento i contratti sono su base nazionale, poi anche a luce dell'accordo che c'è stato tra CISL, UIL e varie parti sociali con la mediazione del governo, nel nuovo modo di fare i contratti ci sarà un peso più forte per la contrattazione aziendale, per cui l'azienda che ha utili, ha bisogno di certe figure professionali, può aumentare e anche non di poco la retribuzione. Alla fine tutto si può sintetizzare nel o dare più soldi agli stipendi del nord o darne meno a quelli del sud? Ma guardi, io penso che il parlare di zone salariali e ritornare all'esperienza che fu sepolta nel 1969 sia insomma perdere tempo, perché è un passato che non ritorna e non ritorna in quelle forme. Io credo che nell'accordo che lei ha citato ci sia invece la soluzione, una soluzione ragionevole, una soluzione moderna, che è quella prevista al paragrafo 16, l'accordo del 22 gennaio del 2009, no? Il quale prevede che le parti di comune accordo possono stabilire, avvalendosi di clausole di deroga, dei trattamenti inferiori ai minimi in determinate aree territoriali o in determinate situazioni di crisi, laddove ci sia da favorire l'occupazione. Questa secondo me è una norma pensata apposta per molte aree del sud, che vige già da almeno due contratti nella struttura contrattuale dei chimici, e credo che sia la strada da perseguire, perché io credo che la differenziazione salariale sia un'opportunità per il Mezzogiorno, perché l'economia meridionale non è in condizione di stare a regole uniformi in tutto il territorio nazionale. Non a caso l'economia meridionale è caratterizzata da un sommerso, da un'economia sommersa che ha caratteristiche strutturali, e certo non può essere imputata a qualcosa diciamo di antropologico, no? che non esiste, ma è imputabile a una realtà economica che da quando è finito l'intervento straordinario, che aveva con sé anche gli sgravi contributivi, la fiscalizzazione agli oneri sociali, l'economia meridionale per sopravvivere è dovuta riserrarsi dal sommerso. Questa è la mia opinione. Però già ho capito una cosa, è che anche il caso che lei citava, che fa parte dell'accordo di qualche mese fa, la direzione è quella di dire casomai diciamo, un accordo che valuti quello che costa la vita va a ribasso, cioè al sud si può pensare a salari diversi anche da quello che è il minimo nazionale. Questo per... sì. No, lo dico perché siccome immagino che il tema per la Lega non porti a dire facciamo guadagnare meno chi lavora al sud, ma facciamo guadagnare di più chi lavora al nord, preso atto del costo della vita, così è importante capire poi a livello economico su che cosa si può ragionare. Le chiederei, Presidente Lobello, intanto un commento a quanto ha appena detto l'onorevole Cazzola, ma in secondo luogo se c'è già la possibilità di ragionare sullo stipendio della singola azienda o magari anche delle sue diverse filiali, il problema non dovrebbe esistere. Ma guardi, già oggi tra nord e sud vi sono in alcune zone anche sensibili differenze salariali. Questo dipende non da un diverso costo della vita, ma un forte differenziale di produttività, nel senso che uno dei problemi del Mezzogiorno è una produttività perfino più bassa di quella del paese, che non è certo ai livelli dei principali paesi europei. Quindi le ricette principali per il Mezzogiorno sono aumentare la produttività complessiva del sistema industriale meridionale, e in questo senso il costo del lavoro può dare solo una parte del contributo, anche perché il Mezzogiorno è estremamente differenziato nelle sue aree. Esistono aree con un costo della vita più alto, con aziende con maggiore produttività, aree molto depresse. Quindi io sono convinto che la soluzione di salari più bassi non sia la soluzione ideale per sviluppare il Mezzogiorno. Occorrono invece investimenti che valorizzino e aumentino la produttività, e quindi investimenti sull'istruzione, sull'innovazione tecnologica, uno sforzo di internazionalizzazione delle aziende e, cosa ancora più rilevante, un disboscamento di quel sistema pubblico ipertrofico nel Mezzogiorno, fatto di una burocrazia eccessiva, spesso poco trasparente, con una cultura di intermediazione, una politica ancora legata al modello assistenziale che pesa sulla produttività delle aziende e sul loro sviluppo. Poi la strada su questo c'è già, lo accennava anche l'onorevole Cazzola, a inizio di quest'anno è stato siglato da Confindustria, dalla CISL e dalla UIL un protocollo estremamente interessante, perché tende a valorizzare il livello aziendale del contratto collettivo con una sorta di patto per la produttività. L'idea da cui parte questo protocollo è quello di incrementare la produttività del sistema e dividere i risultati e gli incrementi tra aziende e lavoratori in sede locale. Credo che questa sia la strada giusta, sia per il nord del paese sia per il sud del paese. Ripeto, ad oggi abbiamo salari differenziati in maniera anche sensibile tra nord e sud del paese, ma cosa ancora più grave per il Mezzogiorno, una produttività molto più bassa che dipende in larga parte dai fattori di cui le ho accennato. Quindi continuare a parlare di gabbie salariali o di differenziazione ulteriore dei salari significa, insomma, in qualche modo non parlare dei problemi veri del Mezzogiorno. Onorevole Cazzola, prendo spunto da alcuni sms arrivati. Forse l'unico settore, e voglio essere anche un po' provocatorio in questo, che potrebbe ragionare di gabbie salariali è il pubblico impiego. Cioè, scrivono alcuni ascoltatori, dico, ma insomma, se poi nel settore privato c'è, col nuovo accordo, la possibilità di contrattare lo stipendio della singola impresa, secondo di come si è messa sulla produttività, di quanti utili faccia, delle sue necessità, laddove la differenza è molto marcata è nel pubblico impiego, cioè il dipendente delle poste piuttosto che il poliziotto, il magistrato che vive nel centro-sud o nel sud del paese ha a livello nazionale lo stesso stipendio di quello che abita a Milano, perché poi vorrei ricordare che la differenza, a mio avviso, è più delle volte tra grande città e piccolo centro di campagna che non solo tra nord e sud. Si può ragionare sul pubblico impiego, secondo lei? Pubblico impiego si ragiona sicuramente su condizioni di parità, perché diversamente dal privato, dove il sistema contrattuale è molto più complesso e dove esistono al di là di tutto, no, delle differenze anche per quanto riguarda i redditi medi, nel pubblico impiego gli stipendi sono uguali da Bressanone a Lampedusa, e non c'è dubbio che il pubblico impiego è il grande limosiniere del sud. Come diceva il presidente prima, c'è una sovrabbondanza di dipendenti pubblici. Pensiamo a cosa significa il pubblico impiego in Sicilia. Io credo che ci sia in ogni famiglia siciliana ci sia un dipendente pubblico. Se mettiamo insieme regione, comuni, unità sanitarie locali, amministrazioni varie, arriviamo a questo risultato. Insomma, non c'è dubbio che le differenze di efficacia e di efficienza che ci sono nel campo dei servizi gridano vendetta. Vede, io per esempio quando ho visto anche questa inchiesta della Banca d'Italia, no, che mette a confronto persino i servizi, no? E il costo dei servizi pubblici fra nord e sud, ignora un particolare importante che io l'ho scritto anche questo, che un operaio di Varese è sicuro alla mattina quando esce di casa di trovare l'autobus che lo porta al lavoro, Un operaio di Napoli questa sicurezza non ce l'ha, e questa è una differenza importante per i cittadini di una Repubblica fino adesso unita. Mi scusi, onorevole Cazzola, però la variabile politica a questo punto entra, perché io immagino che la Lega, ripeto, abbia posto il tema non per portare stipendi invariati al nord e più bassi al sud, sarebbe così anche per la vostra coalizione politicamente un po' suicida in questo momento andare a chiedere stipendi più bassi nel mezzogiorno. Vedo già delle dichiarazioni oggi del governatore siciliano Lombardo che dice inaccettabile di fatto un ritorno alle gabbie salariali, ma immagino che le abbia chiesto, che abbia reintrodotto il tema per avere stipendi più alti al nord, per cui, certo, sì. Per cui voglio anche dire, sono d'accordo con lei che il dipendente così, delle Poste, usiamo questo esempio, di Caltanissetta guadagna come quello di Milano, e sappiamo tutti che il costo della vita è diverso. Secondo il suo ragionamento porterebbe solo a abbassare lo stipendio di quello di Caltanissetta, non aumentare di quello di Milano. Ma sa, io non sono un leghista. Volevo capire. No, sicuramente io penso che ci debba essere nella pubblica amministrazione, e d'altro canto la riforma Brunetta questo lo prevede, una maggiore quota di retribuzione, la riforma Brunetta parla addirittura del 30%, che sia legata ai risultati e alla produttività. E questo debba fare la differenza rispetto agli risultati e alla produttività della pubblica amministrazione, perché non c'è dubbio che io sono bolognese, insomma, sono abituato ad avere una pubblica amministrazione che in qualche modo funziona, non si capisce perché non deve essere così nel sud o in molte aree del sud, senza per questo fare delle generalizzazioni. No, quello va benissimo, però è diverso, quindi non è un problema di gabbie salariali, ma si dice l'ufficio che lavora male, o meglio l'ufficio che lavora bene può avere dei premi di produttività, e l'ufficio che lavora male, che sia al nord, al centro, al sud, magari anche nella stessa area geografica, è giusto che venga punito. Però lei mi conferma che se mai si dovesse ragionare su questo, si tratterebbe di abbassare in qualche modo la retribuzione al sud. Non penso che con questi conti pubblici, con il deficit che galoppa, si possa pensare a un aumento degli stipendi della pubblica amministrazione nel nord del paese, perché vorrei capire dove vengono i soldi poi. Ma Presidente Lobello, voglio fare in qualche modo anche l'avvocato del diavolo, cioè difendere l'ipotesi delle gabbie salariali. C'è chi dice, se però al sud gli stipendi fossero più bassi, poniamo di un 20-30%, diventerebbe più vantaggioso investire nel mezzogiorno, per cui si creerebbe, mi passi il termine, una così delocalizzazione virtuosa, non più verso l'est Europa o altri luoghi, ma verso il nostro mezzogiorno. Guardi, le rispondo subito, su questo tema ci siamo anche interrogati al nostro interno con economisti che hanno trattato i temi della competitività del mezzogiorno. Ma le ripeto, guardi, oggi un abbassamento significativo dei salari nel mezzogiorno compenserebbe appena una parte del divario di produttività rispetto al resto del paese, e quindi non renderebbe competitivo l'investimento nel mezzogiorno. Divario di produttività che dipende in parte dalla produttività aziendale, in parte dalla produttività totale dei fattori. Penso al sistema infrastrutturale, alla qualità della pubblica amministrazione, ai servizi pubblici, all'istruzione, anche universitaria. Quindi, le ripeto, l'abbassamento dei salari non risolve i problemi del mezzogiorno. I problemi del mezzogiorno sono problemi di efficienza della macchina pubblica e di investimento maggiore sulle aziende private. Guardi, si parlava di impiego pubblico. Beh, l'impiego pubblico ha svolto una funzione fortemente distorsiva sul mercato del lavoro meridionale, siciliano in particolare. Ha ragione l'onorevole Cazzola quando parla degli impiegati pubblici siciliani. Per decenni l'impiego pubblico è stato l'approdo agognato da parte di qualunque siciliano giovane. Questo in qualche modo ha creato distorsioni profonde sul mercato del lavoro, perché il mercato pubblico aveva salari più alti e stabilità del posto di lavoro, il mercato privato non garantiva la stabilità e aveva salari inferiori. Questo ha penalizzato in maniera significativa anche il mondo produttivo. Oggi dobbiamo operare su due fronti: da un lato disboscare il sistema pubblico, oggi ipertrofico, non più in grado di dare risposte neanche assistenziali, anzi genera in più punti momenti di implosione, penso diciamo così a quello che è successo nel mondo dei rifiuti a Palermo o in altre realtà. Dall'altro lato aumentare la produttività aziendale, agendo sul fronte dei beni collettivi, infrastrutture materiali e immateriali, pubblica amministrazione, ma anche sulle aziende. Le aziende siciliane oggi stanno modificando radicalmente la loro cultura struttura d'impresa, sono pronti a sfide in passato molto, molto difficili, penso a una ulteriore internazionalizzazione del nostro sistema, a investimenti significativi sull'innovazione tecnologica in azienda, a rapporti che da qualche tempo abbiamo aperto col mondo universitario e con centri di ricerca. Oggi le imprese sanno che la sfida vera nel Mezzogiorno è aumentare la capacità competitiva e la produttività, e questo va fatto assumendoci noi le nostre responsabilità in azienda, il mondo politico la responsabilità di far funzionare meglio i servizi pubblici e dare infrastrutture adeguate al nostro territorio. Sono queste le priorità del Mezzogiorno, e ripeto, un abbassamento del costo del denaro oggi avrebbe una funzione meramente compensativa e parziale rispetto alle tante inefficienze del sistema. Allora, una cosa mi sembra chiara, che comunque la si rigiri, ragionare di gabbie salariali, chiamatela come volete, significherebbe ragionare di stipendi un po' più bassi al sud. Devo dire che non mi sembra né una soluzione per chi abita al nord, che non troverebbe nessun vantaggio in busta paga, né in un momento come questo una grandissima soluzione anche per il nostro Mezzogiorno. Altra cosa, lo dico anche chi scrive, è ragionare sull'efficienza della pubblica amministrazione, dei servizi in generale del sud del paese, efficienza spesso inesistente o che lascia a desiderare, ma quello è un tema che si può svolgere in tanti modi, con incentivi e disincentivi, ma nulla c'entrano gli stipendi collegati a un'area geografica, anche perché, ripeto, così poi la chiudiamo, lo dico a chi scrive, attenzione, dentro una stessa area geografica ci possono essere imprese molto efficienti che si rubano i dipendenti, quindi è giusto che paghino di più rispetto alla media, e imprese che sono in grande difficoltà, per cui blindarle tutte con delle gabbie territoriali come se non vi fossero distinzioni anche all'interno di un territorio mi sembra un metodo così un po' di un tanto al chilo. Grazie all'onorevole Cazzola, al presidente Lobello. ...17:39, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, chiuso, spero anche per un po', perché mi sembra un tema veramente così da pourparler estivo, quello delle gabbie salariali, lo dico fermo restando le differenze che ci possono essere tra imprese e imprese, tra dipendenti di imprese che guadagnano e sono altamente produttive, possono contendersi appunto anche i dipendenti e imprese che sono in difficoltà. Poi devo dirla tutta, con i dati che vediamo sul fatturato delle imprese, le difficoltà dei conti pubblici, ragionare su o un aumento della spesa pubblica o diciamo una diminuzione dei salari non mi sembra un gran tema in questo momento, fermo restando, lo dico anche chi scrive dal nord, che da quello che si capisce al massimo, ammettiamo anche che venissero introdotte le gabbie salariali, l'ipotesi è di stipendi più bassi al sud, lo devo ribadire, non di stipendi più alti al nord. Mi dovete spiegare come fa un'impresa già in difficoltà col fatturato e con gli utili a aumentare lo stipendio per legge, perché risiede nel Veneto, poniamo, o in Emilia, o in Lombardia. Vorrebbe dire forse spingere anche molte imprese a delocalizzare all'estero. Attenzione ai concetti e ai cortocircuiti mentali delle volte. Comunque, la borsa. La borsa va bene oggi, è andata bene oggi a Milano, più 0,8% FTSE MIB, più 0,7% FTSE All, negativa l'Europa, per cui Milano fa eccezione, adesso vedremo perché, mezzo punto percentuale di calo a Parigi, lo 0,75% è il calo di Francoforte, Londra meno 0,2%, l'America perde adesso solo lo 0,1% sul Dow Jones, lo 0,2% sul Nasdaq, euro nell'ultima ora in rafforzamento, viaggia 1,41,50 sul dollaro. Come sempre i mercati con Radio Cori sulle 24 ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Bene oggi a Milano alcuni bancari, ed ecco perché la borsa italiana è la migliore in Europa, assieme a quella belga, se vedo bene, ma insomma parliamo di borse significative. Non se ne abbiano male i belgi. Buzioni, bene i bancari e bene anche i titoli legati al settore costruzioni. Buzioni c'è in più 4,7, come Italcementi più 2,6. Per quello che riguarda i bancari, Intesa più 3%, ancora Popolare di Milano più 2,5%, Monte dei Paschi più 2,3%, Banco Popolare più 1,5%, Fondiaria più 1,2%, Autogrill più 2,94%. Percento molto forte anche Mediaset più 3,5%. Partiamo dal settore costruzioni, quindi Buzzi, Unicem e Italcementi, poi andiamo ai bancari, Autogrill e Mediaset. Sì, Allora, Buzzi Unicem oggi ha guadagnato il 4,76%, ha toccato e ha chiuso a quota 11 euro. I titoli sono stati ben comprati in attesa della presentazione dei conti semestrali che avverrà domani. In ogni caso, come già dicevi tu, ad andare bene è stato un po' tutto il comparto delle costruzioni, anche Italcementi ad esempio ha guadagnato il 2,59%, a dimostrazione insomma che in questa fase torna l'attenzione sul settore delle costruzioni. I titoli bancari, netta la ripresa di Intesa che si avvicina quasi ai 3 euro per azione, 2,92 euro, ma bene anche gli altri titoli che ricordavamo. Sì, Intesa San Paolo ha guadagnato oggi il 3,17% e ha aggiornato i massimi dall'inizio dell'anno. Gli operatori spiegano questo rialzo senza ragioni particolari, se non il fatto che la scorsa settimana, subito dopo i conti, Unicredit aveva guadagnato molto, mentre Intesa San Paolo era rimasta un attimino al palo. Fra venerdì e oggi anche Intesa San Paolo ha iniziato a muoversi, si sta semplicemente in qualche modo riallineando ai guadagni messi a segno la scorsa settimana da Unicredit. Insieme a Intesa San Paolo però sono diversi bancari che si sono mossi in terreno positivo, a cominciare da Mediolanum 2,71, Banca Popolare di Milano 2,51, anche Monte dei Paschi 2,35, insomma a differenza di quello che succede e è successo oggi in Europa, a Milano i bancari hanno ancora tenuto banco. Hanno tenuto banco i bancari, è un bel gioco di parole. Andiamo avanti con Mediaset invece. Autogrill vedo che continua a approfittare sia dei conti che anche dei report positivi, per quello che valgono UBS oggi, e guadagna il 2,94%. Mediaset. Sì, su Mediaset nel fine settimana il giornale El Economista in Spagna ha scritto di una possibile aggregazione fra la controllata spagnola di Mediaset, Telecinco, e Prisa, che controlla l'emittente televisiva 4. Questo ha ridato sostanzialmente sprint a Mediaset, che oggi ha chiuso in rialzo del 3,55%, ma d'altra parte anche la spagnola Prisa ha guadagnato oltre il 5% oggi alla Borsa di Madrid. Insomma, è questo un po' il tema che oggi ha caratterizzato e ha fatto muovere Mediaset. Poi c'è un titolo che si avvantaggia anche dell'OPA, della Controopa, mi riferisco al management capitali, visto che c'è un'offerta della famiglia Segre, Controopa di Tamburi, e il titolo oggi guadagna il 16,3%. Sì, management capitali oggi è andato veramente molto bene a Piazza Affari, è stato più volte anche sospeso. La ragione è questa bagarre che si è accesa ancora venerdì con il gioco di OPA e Controopa fra la famiglia Segre da un lato e Gianni Tamburi dall'altro, che si stanno contendendo il controllo della società, alzando di volta in volta i prezzi per le rispettive offerte. E questo in qualche modo fa bene al titolo, e soprattutto sembra che il mercato stia scommettendo su un'ulteriore gara di rilancio, visto che oggi le quotazioni di management dei capitali sono andate ben oltre gli 0,14 euro, mentre appunto le due offerte si fermavano fra 0,11 e 0,12. Sì, siamo a 0,14,3, per cui si scommette chiaramente che vi sarà un rilancio da una delle due parti, o forse da tutte e due. Campari meno 1,17%, Mediobanca meno 1%, questi titoli peggiori oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, Saipem meno 1, Mondadori meno 0,80 come Terna e Atlantia. Volevate sapere di Fiat e Unicredit? Fiat perde il 0,5 punto percentuale, per quello che riguarda altri bancari, Unicredit guadagna lo 0,6, Alleanza pure. Poi generali lo 0,86%. Grazie a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Le informazioni per chi è in viaggio, e poi dicevo chiudiamo in bellezza, perché con oggi ufficialmente si apre anche la stagione della vendemmia, della raccolta del vino, e ogni tanto qualche buona notizia. Sembra che sarà un'annata da record per un settore che da solo rappresenta il principale settore del nostro export agroalimentare. 17:48 minuti, dicevamo chiudiamo in bellezza ma in maniera seria, perché vale oltre 8 miliardi di euro il giro d'affari del vino italiano. Noi ce ne occupiamo almeno una volta all'anno in occasione del Vinitaly. La notizia di oggi è una notizia positiva, perché viste anche le difficoltà del nostro export, secondo Fedagri Confcooperative la quantità e soprattutto la qualità saranno nella vendemmia che inizia oggi in alcune parti del paese, per carità, le migliori degli ultimi 10 anni. Un giudizio analogo, tra l'altro, e previsioni favorevoli lo ha fatto anche la Coldiretti, legandola soprattutto alla produzione, ma non solo. 48 milioni di ettolitri quest'anno dovremo produrre, quindi un milione in più rispetto all'anno scorso. Sentiamo al microfono la nostra Adriana Fracchia Domenico Bosco, che è il responsabile dell'ufficio vitivinicolo della Coldiretti. Quest'anno la vendemmia sostanzialmente è anticipata grazie a due fattori. Innanzitutto un inverno e una primavera molto piovosi. Questo ha favorito delle condizioni ottimali di germogliamento e di sviluppo vegetativo nel periodo primaverile, soprattutto nel mese di maggio e di giugno, dove associata alla buona disponibilità idrica ci sono state delle condizioni climatiche ottimali. Ciò ha favorito, diciamo, un'accelerazione nello sviluppo vegetativo dei vigneti, consentito quindi di avere una vendemmia anticipata. Negli ultimi anni, effettivamente, se guardiamo le ultime vendemmie, di fatto sembra esserci quasi sempre un certo anticipo rispetto a quelle che erano, come dire, le epoche di vendemmia di qualche decennio fa. E questo probabilmente dipende dal fatto che comunque abbiamo delle condizioni climatiche che un po' sono cambiate. Quanto riguarda la qualità, al momento in linea generale la qualità a livello nazionale si presenta molto buona. Qualche dato economico per quanto riguarda il settore? Dai dati che noi abbiamo, quest'anno l'Italia dovrebbe, diciamo, attestarsi con una produzione di poco più di 47 milioni di ettolitri, per cui la produzione di fatto sembrerebbe essere in leggero incremento, anche se dovremmo aspettare ancora qualche altra settimana che si entrerà più nel pieno della fase di maturazione delle uve, diciamo del grosso delle uve che sono vendemmiate in Italia, per capire poi diciamo effettivamente quello che sarà la produzione complessiva. C'è una situazione di omogeneità in tutto il paese o ci sono situazioni di primato di produzione prevista per un'area del paese piuttosto che un'altra? Allora, in linea generale c'è, quasi in tutta Italia noi registriamo un lieve incremento, diciamo, delle produzioni. Molto probabilmente solamente l'area del nord-est potrebbe attestarsi su una produzione uguale all'anno scorso o in leggera flessione. La cosa da segnalare sicuramente è che le regioni del sud in sostanza hanno una produzione comunque in aumento, solo che questo aumento di fatto sarà molto limitato, perché in pratica quest'anno saranno vendemmiati circa 12.000 ettari in meno, perché la prima annualità del piano di estirpazione finanziata dall'Unione Europea è intervenuta in modo massiccio soprattutto nelle regioni del sud, in particolar modo in Puglia e in Sicilia. Avrà, come dire, un effetto di riduzione dei quantitativi prodotti. Per quanto riguarda il giro d'affari complessivo del settore, stimiamo un giro d'affari superiore ai 10 miliardi di euro. Questo è un dato, come dire, aggregato. Di questi teniamo presente che circa 3 miliardi e mezzo sono dovuti alle esportazioni. Ed ecco perché si diceva che nel nostro export agroalimentare il vino è la voce principale, 3 miliardi e mezzo di export. Dicevamo anche che, oltre che essere anticipata, dovrebbe essere una buona vendemmia, e chiedo conferma a chi oggi la vendemmia la inizia ufficialmente di notte, ossia questa sera alle 21 fino all'1 di mattina si svolgerà la vendemmia notturna nelle tenute di Donna Fugata, praticamente nella zona di Contessa Entellina, vicino Belice, e vendemmia notturna fatta, lo ricordo, per fare in modo che gli zuccheri non si sviluppino con il calore del giorno. Allora siamo in collegamento con Giacomo Rallo, che è di Donna Fugata, il presidente. Buonasera, dottor Rallo. Buonasera, buonasera. Allora, voi iniziate questa sera ufficialmente la vendemmia, questa notte proprio. Ci può confermare, anticipata, mica tanto per voi, ma sulla qualità l'ottimismo che viene... Guardi, per noi si tratta di dare luogo al primo taglio del nostro emisfero, cosa che ripetiamo ormai da 11 anni, e ci troviamo davanti a una realtà che per la verità a noi è assolutamente congeniale e quasi ripetitiva. C'è una buona annata, grande equilibrio fra quantità e qualità. In ogni caso, quando la quantità è un po' in più, un'azienda come la mia, che è segmentata nella fascia medio-alta, è costretta a buttarla giù quella che viene in più per non perdere niente in qualità. Quest'anno l'annata è di grande equilibrio effettivamente, non c'è un'anticipazione vera e propria, perché in altri anni abbiamo anche tagliato lo Chardonnay, che è la varietà che qui normalmente anticipa, anche nei primissimi giorni di agosto, quindi tutto sommato rientriamo in una normalità assoluta. Infatti stasera cominceremo a vendemmiare e vendemmieremo delle uve che sono assolutamente mature e che di più non si sarebbero potute tenere sulla pianta. Per quello che riguarda i prezzi, perché gli ascoltatori vogliono sapere anche e soprattutto il prezzo, le difficoltà del nostro export, il basso potere d'acquisto, per essere gentili, di alcuni paesi, penso alla Germania, all'America, agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, vi faranno ritoccare i prezzi o comunque avete registrato delle sofferenze nelle vendite? Ma guardi, io non vorrei entrare in riflessioni che riguardano un po' i massimi sistemi del vino italiano. Posso parlare della mia azienda e per il posizionamento che noi abbiamo, una cosa è certa: noi abbiamo tentato di creare in questi ultimi anni, in questi ultimi 15 anni, diciamo riuscendoci, un rapporto di grande fidelizzazione con i nostri consumatori e con i nostri clienti, offrendo qualità, sempre più qualità, a prezzi credibili. Quindi oggi come oggi, per un'azienda come la nostra, abbattere i prezzi sarebbe senz'altro come praticamente perdere mercato, perché perderemmo di credibilità. Il nostro rapporto prezzo-qualità viene praticamente accettato. L'unica cosa che posso dire è che eravamo un'azienda abituata a crescere a due cifre del 10-12% ogni anno. Quest'anno diciamo che segneremo il passo, non perderemo niente ma non guadagneremo niente, ma questo viene fuori da una condizione generale di crisi che non si può praticamente sottacere, è quella che i consumi praticamente vanno un po' in compressione, vanno tagliati, soprattutto se riguardano poi vini di qualità piuttosto sostenuta come i nostri. Beh, diciamo che con quello che vediamo in giro, dottor Rallo, se il settore vitivinicolo già riesce a non avere cali nel fatturato e negli utili, è una conquista, perché in altri settori, ahimè, i cali sono nell'ordine del 20-30-40%. In bocca al lupo allora per questa notte, quando inizierà la vendemmia notturna nelle tenute di Contessa Interina Donna Fugata. Devo dire che un giudizio analogo sugli effetti o i non effetti in molti casi di questa crisi sulle vendite di vino l'ha dato anche ai nostri microfoni Gianni Zonin, che è titolare dell'omonima azienda ma soprattutto produce in diverse aree del paese, dalla Sicilia alla Toscana al Veneto al Friuli. Non c'è una grande disparità fra quello che sta succedendo adesso sul mercato e quello che succedeva 5 o 10 anni fa. Devo dire che c'è una maggiore attenzione e una maggiore informazione del consumatore. C'è un attento controllo al rapporto qualità-prezzo. I consumi che si sono ridotti in questi ultimi mesi sono in due direzioni. Nella fascia più bassa del mercato, cioè i vini che costano niente, che normalmente purtroppo non possono essere buoni, hanno perso vendite, e i vini carissimi, che spesso non coincidono con un rapporto qualità-prezzo che il consumatore richiede, hanno perso consumi. Adesso il consumatore vuole un prodotto buono, anzi ottimo, a un prezzo giusto, e c'è una ricerca della qualità. Chi ha saputo produrre vini ottimi a prezzi ragionevoli non ha problemi di mercato. Chi ha voluto approfittarsi del consumatore con vini anche buoni ma a prezzi altissimi sta perdendo quote di mercato. Chi ha prodotto vini scadenti non vende più. Sì. sarà anche una buona vendemmia, ma forse la gente ha poco da brindare quest'anno, scrive un ascoltatore. Per carità, è vero, dal punto di vista economico c'è pochissimo su cui brindare, però ricordo anche che il vino aiuta a dimenticare e forse questo potrebbe controbilanciare il fatto che ci sia poco su cui brindare. Al di là della battuta, da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia.